tutti i bambini con i chiodini vanno a inchiodare Gesù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. E la Madonna, povera donna, andiamo a inchiodare anche noi. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Inchiodalo bene con le catene che non ci vieni più giù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Amici e compagni di Radio Wombat, siamo in una nuova puntata del notiziario Rassegna Anticlericale e partiamo da una definizione di anticlericalismo: ogni atteggiamento di opposizione all'ingerenza del potere ecclesiastico nella vita politica e sociale di un paese, o di avversione a governi, partiti o persone che conformano la loro azione civile ai dettami di una determinata chiesa impersonata dal suo clero. Anticlericalismo parolaio era quello della classe dirigente politica risorgimentale che non attuò una vera separazione dello Stato dalla Chiesa, per esempio bocciando in Parlamento tutte le leggi divorziste, pagando la congrua ai parroci, lasciando l'ora di religione nelle scuole elementari a discrezione dei comuni, eccetera. Dal calendario anticlericale di Pierino Marazzani, il sottoscritto, leggiamo al 5 aprile 1823, Papa Pasquale I, coinvolto come mandante nell'omicidio, preceduto da crudeli sevizie, di due alti funzionari papali. 6 aprile 2018, Assagi Nou nel Michigan, sacerdote accusato di reati plurimi a sfondo sessuale contro adolescenti. 7 aprile 2017, Abate di Rho, provincia di Milano, indagato per violenza sessuale contro un minore, con l'aggravante di essere il suo tutore legale. 8 aprile 2018, Don Mauro Inzoli si presenta spontaneamente nel carcere di Bollate, deve scontare 4 anni per pedofilia. 9 aprile 1393, l'Inquisizione di Aragona, Nicola Eimerich, esiliato per ordine reale a causa dei suoi reiterati abusi. Venerdì 10 aprile 2018, prete fanatico militarista deteneva illegalmente vere uniformi militari in una canonica a Baldari a Verona, denunciato dai carabinieri. 11 aprile 2018, condannato a 13 anni di prigione un sacerdote di Cuenca in Ecuador che abusava sessualmente di un minore di 5 anni. 12 aprile 2015, il sindaco di Trecate alla diocesi di Novara dichiara che non vuol più pagare direttamente il parroco a spese del comune a causa di un vecchio lascito plurisecolare che lo imponeva. Ricordiamo poi che l'8 aprile 2020 sui giornali è comparsa la notizia della supermulta per una messa abusiva contro la legge sui coronavirus fatta a un prete di Perugia. È uscita poi la rivista Libero Pensiero, periodico dell'Associazione Svizzera dei Liberi Pensatori, sezione Ticino, con un editoriale anticlericale e 25 anni dopo l'intervista a uno scrittore antimusulmano che si chiama Ibn Varrak, che a rischio della vita ha portato avanti questi discorsi contro la religione, contro il clericalismo. Sta per uscire un suo nuovo libro, Una storia dell'ateismo nel mondo islamico. E poi l'articolo riporta varie statistiche. In Tunisia addirittura il 31% delle persone si dichiara non religiosa. Poi un'intervista a un ticinese. L'importante è ragionare con la propria testa, che è la parola d'ordine di noi atei, anticlericali, di non credere ai fideisti, di non dare retta alle panzane che raccontano i preti. Poi sapete che nel Canton Ticino è nato un certo Bossi, due secoli fa, che scrisse il libro Gesù Cristo non è mai esistito. Infatti anche in questo numero, che appunto dell'inizio 2020, c'è un articolo appunto su Gesù Cristo non è mai esistito. Gesù Cristo non è mai esistito, un'affermazione che scandalizza molti che credono nelle radici cristiane dell'Europa e ritengono che certe speculazioni potrebbero portare al nichilismo. L'Europa non ha solo radici cristiane, l'abbiamo già descritto e documentato più volte in queste pagine. Anzi, si potrebbe obiettare che la decadenza dell'impero romano e della cultura ellenistica è stata concomitante con l'avvento del cristianesimo. Fu solo una coincidenza oppure una relazione di casualità, di causalità inversa? Fu la decadenza della cultura antica a promuovere le nuove religioni monoteiste e integraliste? È tutto ancora a dimostrare. Resta comunque il fatto che la cultura europea non è sinonimo di cristianesimo. Ah, poi c'è una bellissima vignetta. Questa storia di Dio ci ha reso sempre bene, dice un papa caricaturale. Se non c'era, bisognava inventarlo. Ah, poi abbiamo poi un articolo del noto anticlericale milanese Daniele Ratti, Papa Bergoglio. Uno sguardo critico sull'azione e di messaggi dell'attuale papato, dove si sbugiarda il finto progressismo di Bergoglio. Si parla poi del Darwin Day del 12 febbraio, che in Svizzera è stato celebrato da una decina di atei liberi pensatori. Chi è il libero pensatore? L'impegno e l'azione del libero pensiero conseguono a una scelta di vita fondata sui principi della libertà, dell'uguaglianza e della solidarietà, che prescindono da ogni aspettativa di ricompense ultraterrene. Bene, concludiamo qui segnalandovi il mio cellulare 331-730-2874. Chi vuole segnalare notizie, aneddoti anticlericali può farlo. Saluti a tutti da Pierino Barzani del Circo Giordano Bruno di Milano. Ciao. Yeah. Radio Wombat. Da sempre e obiettivamente la migliore. Amici e compagni di Radio Wombat, siamo una nuova puntata del notiziario anticlericale tenuto da Pierino Marazzani del Circolo Culturale Giordano Bruno di Milano. Iniziamo con le spudorate falsità di Rai Storia, che ieri sul canale 54 della Rai ha parlato di Ratzinger in occasione del suo compleanno. Ovviamente ha fatto vedere delle foto, ma hanno omesso quella in divisa da nazista, che invece è comparsa su tutti i giornali. Veniamo ai coronavirus. Parteciparono a una messa segreta 28 fedeli denunciati vicino a Roma, non ottemperando alle leggi, sono stati quindi denunciati e multati. Passiamo ora ai fulmini anticlericali. Ben due chiese sono state incenerite nelle ultime settimane. A San Vito a Mascalucia, in provincia di Catania, è stata incenerita la chiesa di San Vito. Campane mute a Capriva del Friuli, Gorizia, per un fulmine anticlericale. Veniamo alla strage dei coronavirus. E i preti morti, che al 30 marzo erano solo 79, adesso sono ben 111, tra cui due preti di soli 45-46 anni. Record della mortalità clericale a Bergamo, che è una delle città dove si prega di più in tutta Italia, dove le funzioni sono sempre affollatissime. Evidentemente il loro presunto Dio si è dimenticato di loro. Passiamo al piccolo dizionario di terminologia atea anticlericale. Antistoricismo ossessivo. Ne sono affetti gli intellettuali clericali, spesso volti a falsificare e minimizzare le nefandezze perpetrate dalla Chiesa. Antiteisti, coloro i quali propugnano l'inesistenza di entità soprannaturali e si adoperano per liberare l'uomo dalle mistificazioni religiose. Archivi infami della menzogna, lo sono i Vangeli, gli atti conciliari, bolle apostoliche, eccetera, che furono in gran parte falsificati da abili impostori. Arcicanaglia, arcivescovo particolarmente violento e fanatico. Lo fu per esempio San Cirillo di Alessandria d'Egitto. E veniamo al calendario anticlericale, che partiamo da domenica 12 aprile. Il sindaco di Trecate della diocesi di Novara decide di non pagare più direttamente al parroco a spese del comune un vecchio lascito che lo imponeva da secoli. 13 aprile 2018. Incredibile a Romilano. Un omicida va a compiere un duplice assassinio su un'auto prestatagli da un amico prete. 14 aprile 2018. La giunta lombarda, leghista, filo crocifissi, nega il patrocinio al Gay Pride di Milano. 15 aprile 2016. Un prete cattolico è ritrovato impiccato in uno stato del Karnataka in India. 16 aprile 1680. È documentata la presenza di una schiava turca e della sua bambina nella Roma papale. 17 aprile 2018. Prete filofascista celebra messa a Cremona per Mussolini e Farinacci. 18 aprile 2018. Diffamazione. Formigoni sconfitto in tribunale e condannato ad una salata multa a favore dei radicali. 19 aprile 2015. Soldi spariti, trame e veleni, ex vescovo di Trapani, accusato, cita il suo successore in tribunale. Bene, saluto a tutti per questa nuova edizione del notiziario anticlericale. Arrivederci alla prossima edizione. E chi vuole contattarmi può chiamare Pierino Marazzani al 331-730-2874. Saluti. Vieni su Monte Calvario.